radio, se ascolti doppio rumba la città di Sassari, nord della Sardegna. L'ho sentito molte volte. Mica c'è questo che ci sta chiamando. Really? bocca a garrulli, lucidato il cilindro, pulito tutto, carburatore, smontato tutto, rulli, cosa, oggi ho fatto un travaglio quando si tocca, là. Ah, ma garanzia, va. E come ti dice la garanzia? La moto che non si ferma più. guardi. Attento, guardi. Secondi ragazzo, cambio. Città di Sassari che ti fa chiamata, Mi appoggia gli arnesi, non avete ancora capito. Non ce n'è bisogno di arnesi, ce ne abbiamo tutti sulla antenna, Tu sei tu? Tu vedi il gioco, a chi così? Attento Carmine, ci sei? Ci credo poco. Non ti sei. Carmine! No, c'è un'altra propagazione forse. Carmine! Ho trovato un lavoro migliore, pure subito. No, aspetta che devo che la loggia va bene, caspita. Ho fatto un bagno del vignarone grosso e è tranquilla l'acqua. Oh, ia. Aspetta che so. Devo diminuire. Se no come posizione di livello 9. Trova quello uno serio. Uno serio, uno serio. Io pure sto faccio vedere io. Sì, uno serio ce l'ha. Stefano ce l'ha. Deve cambiare la meffa. Io abbiamo fatto così. Da quando me l'ha giocato non l'ho mai attaccato. Deve cambiare la licenza d'ingresso e da 350 tondi tondi. E cosa è? BV2001MK3. Ah, parrocchio, e cosa ce l'ha a fare? La licenza d'ingresso deve cambiare, perché è stato pilotato un 15 watt con quello grande. Ma ci andiamo a trovarlo a Stefano Cavalli. Benedito cosa c'è di a Sassari? Abita. Ma che neanche un Massimiliano lo sta vendendo. Perché lo pilotavo con chi usa anche, e non so la mai in quanto del mio, quindi gli altri non lo so. Se lo satura, che nome è? Facciamo, vediamo, se lo vediamo, lo vediamo. Penso di sì, glielo chiedo se lo vede. Dipende da come lo piloti, il problema è quello. Io non ho mai visto saturare con gli lineari, anche perché c'è una resistenza all'ingresso, c'è un pulsante che ti fa la commutazione 5-10. Con 10, pilotato con 10, quanti erano? Allora, io lo pilotavo con Kenwood, 10 watt, soldi, soldi, e usciva una bomba. Se ti ricordi come ci vuole tanto tempo fa, come un 2001 l'MK3 quando prima di trasferirmi da mia banda a basso al centro storico, sai che linea è? Sono appurate al 6 minuti. Si era avvocato, c'è il buono, la barabara. avvicinando qua. Voglio io. Guarda, sono secchi. C'è una buona moto, già l'ho acquisto. C'è un bello, uno male più piccolo. La mossa è dipende da quello che si vuole comprare, quanto vuoi spendere, 300 euro, da quanto vuoi spendere, 250, non lo so. Allora, lo vedo con un po' di furo, lo vedo con i suppliciò, no, sono liberi adeguati. Ho detto quanto potresti spendere, ho detto per un lineare, non ti ho detto che costa tenere pure 300 euro, eccetera. Quanto vuoi spendere? 200 euro, 100 euro, quella ne so. E se lo compro nuovo, logicamente, spendo molte soldi in più, sarà anche più piccolo, però c'è un nuovo e lo svergivo io. Se lo prendo usato, che è passato il mare in mano, se ce la fa a fare, ci prende, se no ciccia. Ah, come ti conviene pigliare un 4,40, 400 euro. Nuovo, ce l'ha la baraccosa, Massimiliano, insomma, dico come si chiama, non è attivo, ce l'ha, c'è una bomba, esce. Tanto che c'è il pannello, scusa, posso migliorarti come non aprirete a mettere l'apparecchio intero, no? Oppure un 680. Almeno c'hai 100 watt d'uscita e 100 watt di balle, se c'hai tutta la sequenza che ti piace, ti fa anche piace. Bravo, Archimede, stai dicendo, ce l'ha raccontato il contratto. C'ha tutto, c'ha, mi sembra solo 300 euro, adesso mi ricordo, o 250 o 300, non mi ricordo. Si fa faccio gli occhiali, c'era a casa sua, stavo usando l'altra volta. E già lo so, lo stavo vendendo. Ma non ti conviene più quello, scusami, scusa, se ne fai di lineare, due altre vai in c'è. Ti completamente con la Geggio, ci concentro come esco io, e c'è le soddisfazioni che vuoi. Io con questo qui, con Francetto, non sono balle, mi sono divertito con questa terra della macchina a parlare con la Grecia e con la Turchia. E più la parlavo con la ragazza spagnola che parlava a Antonio, qui figura di tu, con 50 fatti sono di tu. Cosa vuoi di più? Basta la vado, e poi al limite se vuoi fare la prova sabato, non stava guardando domenica cosa, ti sposi, scendi questo qui a casa tua, ti fai la prova, lo sei subito. E va là però ti conviene direttamente comprarti l'apparecchio grande, no? E se non ho sentito cosa stavo vendendo. Secondo me ti conviene più comprarti l'apparecchio che comprarti lineare, secondo me. Allora come è tutto, se lo tieni a casa e sei tranquillo, lo te lo lasci in macchina. No, ma a te un attimo che me la tira gli orecchie, ma la tira tutti spagnoli. E tira la casa di casa. Sì. Aspetta, sento un po' la parola laterale, a volte se la porti a pezzo quando parla ancora. quando fa lui tutti si poteva per questo qua. È basso però. Arrivavi più forte gli altri giorni, strano, oggi arrivi 8 e mezzo quasi 9, la famosa arrivavi, non dici quanto il socio di Davide, mi sei abbassato, mi sei toccato. Io per esempio ho una videocamera che c'ho del prima, l'ho aperta. kilowatt e quelle da 1,5, se si rovinano le gambe e via. Invece queste qui ti danno sempre più problemi. Infatti io anche per quello io valutavo tutto quanto, anche ho fatto delle batterie che ce ne ho, di quelle ricaricabili, capi? Anche tu ti do ragione su quello, ma quello che ti voglio dire io è, dato sull'esperienza anche di Daniele, io dico, cioè, messo il tutto insieme, il tuo dato problema è quello, ma l'altro problema, se non abbiamo la batteria a zero dovremmo monitorare il tutto. Insomma, fare un pensierino. Infatti, ma questi nuovi che sono arrivati magari era una parte difettosa, e magari questi vanno bene. Dice, è strano, perché quegli apparecchi lì, quando li ho telefonati, ce ne sentite a decidere cosa mi ha detto. Vabbè, per questo è già, si dice quello altro anche. No, aspetta, io ho un rapporto cliente-venditore già da tanti anni. Con Desiree ci trattiamo, o mi dà il consiglio, cioè mi dice prendi quello che va meglio, capito? E io quando gli ho telefonato la scorsa volta per telefonare l'ordinario di quello lì, gli ho chiesto e mi ha detto che è un ottimo apparecchio, che ne hanno venuto tantissimi e che non hanno mai dato problemi. Purtroppo, se questa volta è andata così, magari una partita... io ci credo perché... Cazzo, non avrebbe nessun coso di prendere un cliente come me che gli ha comprato mille cose e anche cose un po' costose, tipo l'S9, 980 e l'alimentatore della 50 della 50 ampere, eccetera, eccetera. Oltre a tutti i clienti che li ho buscata. Sono un po' di cose che non parlano. Non lo so. Però l'altro che avevi prima che è esatto, via, grazie. E lo so, Giorgio, ho fatto una cazzata, vabbè. Secondo me l'ha fatto male, l'ho ordinato, ho preso un posto, non pagare. Vabbè, pazienza. Vabbè, io già, per il momento già sono a posto. No, volevo fare... Ma è molto carino, si accende da sopra, hai visto, tipo cellulare, sembra molto tecnologico, cazzo, invece poi si mette qualche sciagazzata. Perché se il resto fosse stato, se avrebbe avuto la scanalizzazione delle memorie, sarebbe stato completo. Infatti non capisco perché abbiamo fatto una cantata del genere. Come sono accorto subito, d'accordo come l'ho impostato all'inizio. Poi sono andato a vedere qua, memoria manuale, ho sentito proprio. Registrazione, frequenza delle memorie manuali. Per registrare manualmente una frequenza in una delle memorie manuali. Che schifo, eh? Vabbè, purtroppo. In compenso mi sono arrivati 2 mesi di telefonate gratis ai numeri Vodafone. Attento Francesco, se ascolti Italia, Nord Sardegna, città di Sassari che ti fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Buonasera Francesco. K che ti ascolto, non ho capito da dove stai modulando, è l'operatore Gianni doppio room che ti super cordializza. Capacità finanziaria, ti ascolto, ma la propagazione ogni tanto si abbassa. Si abbassa, si alza, insomma, è una propagazione un po' falsa ancora, dai. Come nel tempo in Sicilia, qua sta piovendo, ha cambiato di brutto. Tra la Francia c'era. bene, c'era anche 21 gradi, 22, ma adesso è calata 11, 12, la temperatura è... E sta piovendo, in questi giorni sta piovendo, ma chissà che si ristabilisca questo tempo, perché non ne vuole sapere. Dai. Io sono in compagnia di Antonio da Sassari e da Pierpaolo Velauno. Adesso ti passo Pierpaolo, poi vediamo un po' se ascolti anche Antonio. Dai. Avanti Pierpaolo. Non so se mi ascolta per amico, io il primo momento ho sentito, adesso non sento più. Capo, molto e comunque se mi ascolti, Pierpaolo Velauno da Sassari, dove Sardegna. Paolo, io ti copio, comunque io sono Franco, Aquila della Notte, Sicilia, la punta più a sud, Paichino, provincia di Siracusa, e la... Sembra polacco. Pomodorino, ciliegina, pomodorino, lo chiamano Paichino, dal nome del paese che... Ah, vaga. Ho ascoltato già. Sì, ha detto, ti stava spiegando che c'è un pomodorino che lo chiamano Pacchino, nome del paese, capito? Col nome del paese, un tipo di pomodoro. Cappagamma. La Sicilia è un'isola come la Sardegna, tutta soleggiata e bella come la Sardegna. Ascoltarlo, saluto a tutti. un saluto anche da parte mia. KK. Sei macchina, Savi. Adesso da quando ti sei andato a pescare, mi vuoi fare i baffi. Adesso c'è un ripiato anche in macchina. Io collego. Salturi, cambio. Mi sa, vedi, stava a farti cagare con l'acqua, ma la macchina che fa adesso non lo vuoi più piazzare, non devi sfruttare. Volava bene la macchina, con l'asfalto bagnato, si è freni, lui si è messo. perché devi mantenere la distanza, devi mantenere, altrimenti non riesci a frenare, quindi fai giusto, siccome sono ben apprezzati, non guardano se possono farci, se non fai quello, se non fai quello non portare, dove si è già addosso, perché devi tenere distanza un po'. Adesso la distanza bisogna tenerla, si chiama distanza di sicurezza, infatti. Bisogna tenerla, però io penso che stava anche camminando, capito? Perché andare in barriera del genere stava camminando. Ah no. E già pure la camminetta. Attenzione Valencia, se come il sud Italia, se come la Sicilia. Attenzione sud Italia, avanti sud Italia, ci ascolti la Sardegna. Valencia, Fidi, Valencia, Fidi. Mi chiamo Valencia, Bulba. Spagna, Bulba. Calma. Perché tutti hanno un vizio brutto di stare troppo vicino alle macchine. Bisogna tenere un pochettino più di distanza, bisogna tenere. Tu è capitato anche a me. Non so che cosa vuol dire. Diciamo che io ho visto la macchina, ho frenato ed ero lontano, mi ha pattinato la macchina, perché dice l'asfalto liscio e sono 100 anni che non lo fanno. Mi ha pattinato, io ho sterzato e l'ho preso lo stesso all'atto, l'ho capito, ho cercato di evitarla ma non ce l'ho fatta, eppure la distanza ce l'avevo, l'ho vista la macchina, solo che loro hanno frenato tutti di colpo, per un cane che è passato, ha frenato il primo, ha frenato il secondo, ha frenato il terzo e io non ce l'ho fatta. È un casino, un casino. Allora già quanto è pericolosa nel bagnato, diciamo dove vanno noi, se non fai attento devi stare molto molto molto attento, soprattutto nelle prime piogge. Ma magari con il carico quanto già lascia di più, non attacca di più a terra, quando c'è le bombole sono pesanti, magari se la va di più sensibile. Lo so, ma l'asfalto bagnato è brutto, infatti bisogna mantenere velocità moderata e distanza di sicurezza con l'asfalto bagnato. Però, in via delle vigne, anzi adesso non tanto, ma prima quando non c'era lo spartitraffico al centro, non c'era tanto burrini, ma anche avanti burrini lo mantessi. Una volta hanno messo sotto una donna davanti ai miei occhi e c'erano i vigili. Questo vigile si alza, signora, si alza, non la toccate la terra, gli ho detto, scusi lei chi è? E gli ho detto, io non sono nessuno, però faccio il corso di pronto soccorso e qualche cosa la so. E perché non la dobbiamo toccare, lasciamo stare a farla investire dalle macchine, bloccate il traffico, però non toccate la terra, se la fanno arrivare all'ambulanza, gli ho tolto la tessera e gliel'ho fatta vedere. Fatto benissimo. Non l'hanno toccata. Mi sono fermato vicino a quando è arrivata l'ambulanza, se la toccava ne aveva denunciati. Cioè, giustamente loro devono limitarsi a fermare le macchine, devono fare il loro mestiere. Tanto aveva il femore rotto, aveva il femore all'altezza del bacino rotto. Devono solo limitarsi a fare il loro mestiere, a fermare le macchine, e poi chissà deve pensare a fare il resto. E lì c'è l'arteria femorale, se capita che c'è un osso, una scheggia di osso che taglia e recide l'arteria femorale, la moglie di sanguato, lo sai. Soprattutto chissà deve fare quello e deve tenerla in terra, così come loro devono fare il loro mestiere, filmare macchine e aspettare l'arrivo dell'ambulanza. Attenzione, attenzione, attenzione a Valencia, attenzione, attenzione a Valencia, ok, mi è malito, non so se entra l'altro, se verrà. Quan, viene adelante. C'è una bomba. Attento collega, se ascolti la Sardegna in campa. Della città di Sassari in campa. Ah, sì, vi ascolto Sardegna, solo che c'ho qua amici di Valencia, della Spagna. Ti ascolto bene, ok? Qua io muoio da Messina, ok? Il mio nome è Alfredo. Cappa Messina, ciao Alfredo, mi hai sentito? Scusami se ti ho interrotto in pressione, ma non avevo sentito che... Cappa, ti ascolto molto bene anch'io, complimenti per la radio, chiara, limpida. Un segnale che arriva sino a 9. Diciamo, stai andando bene, dai. Comunque, continua il tuo questione, qua ci trovavamo un questione locale, dai. Comunque, non c'è problema. Stato molto forte qua, Messina. Non scherzano. Santiago, non per più 20 mi stava arrivando, adesso si è tornato a passare. E la radio, ecco, la radio era chiarissima, tutto perfetto, poi adesso tu casi. Le trattene. Qualche valvolare aveva. No, attenzione Messina, Gruppi Sassari. Rios. Vabbè, è andato e tornato. Perché stavamo disturbando col QSO? È già via. Stavamo parlando con Valencia. Passiamo 45. Yeah. La... Ma anche qua c'è propaganda. Attenzione, binario 45, siamo copia della Sardegna che fa chiamata Cava. Attenzione Agrigento, se ascolti la città di Sassari, nord della Sardegna, in cap cap. Attento squalo, se ascolti doppio ruda la città di Sassari. Mi aspetti un attimino, sto andando così a capicolo. Attenzione squalo, se ascolti la città di Sassari, nord della Sardegna che fa chiamare. Cappagarga. Attento si racchiusa. Se ascolti la città di Sassari. Attenzione binario 45. Se ascoltate l'isola della Sardegna, città di Sassari che fa chiamata Gatta. Viaggio, viaggio uragano, viaggio. raggio uragano, ascolti il nord di Sardegna. C'era la guida della nostra Pagino, che ti salutava, Rubacuori. Ma vendo Rubacuori. Nulla. Siamo di amore. Va bene, va bene, vi faccio da Forterapio. Aquila, piaccio di cambio saluti al 100%. Va bene. Hai cambiato l'acqua di olive. Va. E chi è questo masculaccio che sta chiamando qua? Avanti, binario 4.5, copiate la stazione, bombolo della città di Sassari, Gabba, provincia di Ragusa, Modula. Avanti. Ma non c'è un squalo sotto che fa chiamata? Gabba, avanti, popolo italiano, copiate la stazione, bombolo della città di Sassari, Gambio. Attento Agrigento, Gianni si ascolti, doppio rum, Gianni doppio rum della città di Sassari, nord della Sardegna. Pasquale, che ti ascolto, va, la propagation va e viene, non è di quelle fisse, dai, non è una propagazione normale. Ti ascolto, ti saluto cordialmente con una stentona di mano, va, va. L'operatore Gianni Doppio Rum che ti super cordializza. Fabio Dinamite, se ascolti doppio rumba Sassari, K. Dinamite, se attenti ascolto, vediamo un po' Dinamite se riesco a ascoltare, se riesco a ascoltare. Dai. Attenzione primo volo. Sassari, la città è Sassari, l'operatore Gianni Doppio Rum. Sassari, nome? Nome è Gianni Doppio Rum. Rum. Pagamba. Vi ascolto tutti, dai. Se la propagazione ce la consente, perché l'intanto si abbassa. Yeah. Okay.